ad alta voce. Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. 25esima puntata. Per giorni e giorni accanto al suo letto, in attesa. Per giorni e giorni sulla sua agendina, che è un documento del partito, la stessa annotazione: Losanna, in clinica da Xenia, lavorato a breve storia. Xenia non ha più fiato e ogni rumore è un dolore nelle carni già così offese. Per giorni e giorni, come in carcere, nel silenzio mortale della stanza, un messaggio senza più parole passa fra le mani di Uriello e Loletta. 3 colpi con il dito sul palmo per dirsi l'amore. Quando già i medici si sono allontanati e le infermiere hanno rinunciato a ogni gesto, ancora Mimmo batte piano i 3 colpi per farsi sentire, per dirsi presente, ma rassegnato a che nulla più possa raggiungere Loletta. E invece la mano, tutta madida e fredda, ha un fremito. Schiantata ma certa, si muove una volta, 2, a 3. Questa volta non riesce ad arrivare. Sull'agendina, la domenica 27 gennaio, ore 5, Xenia è morta e sotto uno scarabocchio a cancellare una giornata intera. Nei primi momenti prevalse il sollievo per saperla finalmente libera da tutta quella sofferenza di cui era stato testimone. Gli sembrava di desiderare che quel corpo così straziato scomparisse al più presto, per poterla ritrovare dentro di sé come era stata. Però quando vennero per portarla via, non riusciva a staccarsene. Il freddo che emanava da lei gli sembrava necessario a calmare il battere convulso del suo proprio cuore, la febbre che si sentiva alle tempie. La pelle secca gli bruciava e gli occhi non immaginavano lacrime. I singhiozzi che a tratti lo squassavano erano come i colpi di tosse che avevano soffocato lei, contrazioni dolorose e senza sbocco. Poi gli consegnarono le parole di Xenia, scritte prima, quando ancora riusciva a farlo, quando era ancora capace di ironia. Nel cassetto c'è una lettera a Mimmo, aveva scritto a sua madre appena arrivata. Non le aveva spiegato, soltanto ordinato: lasciala lì. La religione di sua madre, per ogni segno tracciato su carta, la faceva sicura del dopo, della consegna. Come annullando il tempo e ogni cosa, la grafia era quella dolce che le conosceva, la carta sottilmente rigata quella su cui sempre Loletta aveva scritto appunti, traduzioni, lettere. Mimmo mio dolce, tante volte ti ho scritto così e c'è sempre stato un dopo. Ho paura che stavolta Loletta non sarà fedele e ti lascerà in mezzo ai pasticci proprio quando avresti più bisogno di calma, di ordine e di aiuto. Ma io ho imparato tante cose da te, e fra queste anche quella importantissima di saper guardare le cose in faccia e cercare di prendere le misure migliori per poter rimediare ai guai che possono turbare la vita e quindi l'ordine del lavoro. Perciò, passato l'inevitabile trambusto, bisognerà che pensi al più presto a ristabilire una certa calma, un ordine nella vita tua e delle figliette. Per te questo si farà per forza, perché il lavoro di partito non può aspettare. Per le figliette sarà un po' più difficile e bisognerà che contribuisci molto ad aiutarle. Mi dispiace che non lascio terminare a mamma la sua già tanto travagliata vita senza darle anche questo altro strazio. Ma che fare? E sono certa che vorrà lei stessa restare con voi per un certo tempo almeno. Penso che questo tempo possa essere fino a che tu non ti risposi, perché a questo ci tengo moltissimo. Tu non puoi vivere senza una compagna accanto a te, e io farò del mio meglio per cercare di spiegare a Marinella che tutto l'amore che hai avuto e che sempre avrai per me non sarà in nulla intaccato da un nuovo affetto che domani potresti avere per un'altra compagna della tua vita. Sarebbe difficile spiegarlo solo a parole se poi, da parte tua, non ci fosse un'azione continua in questo senso con le figliette. E questo so che ci sarà, che tu sei capace di farlo. Io rimpiango soltanto di non poter continuare a starti vicino, ma non rimpiango nulla nella vita che posso non aver avuto, perché Mimmo, quello che tu mi hai saputo dare, basta a riempire una vita lunga lunga. È per l'appunto a Joy Forever. Se oggi mi domando che cosa avrebbe potuto rendermi più felice, cosa desidererei che fosse stato diverso nella mia vita, non trovo nulla, perché tutto quello che c'è stato è tutta una cosa sola, che è la nostra vita, che è stata più bella di tutto e che se fosse stata diversa in qualche cosa non sarebbe più stata così. L'immensa fortuna di non averti perduto quando ce n'erano tutte le probabilità, io l'ho apprezzata poi ogni giorno, ogni ora degli anni che sono venuti poi. E siccome sono sempre stata egoista, devo confessare che non mi dispiace andarmene per prima, sebbene ne provi un acuto rimorso. Ma come avrei fatto senza Mimmo? Mi sarebbe servita ben poco a Joy Forever, perché non avrei saputo in alcun modo colmare il vuoto, mentre per te questo è possibile, anche se non sarà subito facile. Chissà perché mi è tanto facile pensare a questo nostro distacco, proprio come quando ne parlavi tu e io mi arrabbiavo tanto. Ma credo che sia così, perché sento dentro di me, intorno a me, così grande e completo l'amore di Mimmo che non ho nemmeno l'impressione che qualcosa possa cambiare per la sola assenza materiale di uno di noi. Però se ti lasci andare ad ammalarti, guarda che m'arrabbio. Va bene che la nostra divisione del lavoro non potrà più funzionare, ma in compenso ne viene molto di più sulle tue spalle. Pensa come può essere decisivo per le figliette questo momento. Può influire su tutta la loro vita. Se ti saranno vicino, non ho paura per loro. Ma senza il tuo appoggio e il tuo continuo aiuto, non vedo bene come se la caveranno, specialmente Marinella. E come moglie, chi consigliarti? Ora non saprei davvero. Deve essere una ragazza coraggiosa, che non abbia paura del nostro amore e che non abbia paura di diventare un pezzetto di Uriello. Ma vedrai che trovarla non è poi tanto difficile come sembra. Certo, non devi pretendere di poterlo fare tra un articolo e un discorso, un viaggio frettoloso e 10 pagine di volata sugli ominidi. Bisognerà che ti dedichi una seconda volta, così come hai fatto per Loletta, e forse anzi ci dovrai spendere meno tempo, sia perché ora sei grande, sia perché potrai avere la fortuna di trovare un tipo più facile di come ero io. Certo, non sarà semplice con Marinella, specialmente se avrai altri bambini. Ma tu che dici sempre che ti sentiresti capace di mandare avanti un harem, non credo che non saprai trovare la via giusta con la figlietta. Quanto alla tua futura moglie, le voglio bene se saprà voler molto, molto bene a Uriello. Se saprà non essere un'altra persona ed essere in tutti i momenti al suo fianco senza mai flancher, e che Uriello sappia che può essere sicuro di poterci contare. Al partito non so come esprimere la mia immensa gratitudine per quel che ha fatto della mia vita, per il contenuto che le ha dato ed anche per le possibilità che mi ha date di poter esplicare un lavoro in momenti decisivi della sua storia. Senza questa attività oggi mi sentirei incompleta, avrei da rimpiangere qualcosa che non ho avuto. Il partito invece si è fuso per me con la mia vita privata così strettamente e completamente da darmi sempre la certezza di essere una particella di quella immensa forza che porta il mondo in avanti. E questa è una grande gioia che vorrei che le mie figlie potessero provare. Ricordo con grande affetto tutti i compagni a fianco dei quali abbiamo lottato tanti anni, quando sembrava che nulla mai sarebbe mutato e che i nostri figli sarebbero cresciuti in esilio, e a chi oggi dice di non aver fiducia nei cambiamenti. Ricordo sempre i tempi di allora e le molte cose successe poi. E di noi, Mimmo, ti ricordi quando dicevamo tutto l'amore massimo? E ora è di più, molto di più, che riempie tutti, che a me dà la gioia di sentirti dentro di me sempre e che a te darà la forza di continuare la tua vita, che è anche la vita di Loletta, con il lavoro di partito, con i liguri e tutti gli altri antichi e moderni che debbono venire ancora, e con le figliette grandi e piccole e quelli che verranno a te dopo, e i nipoti e pronipoti. Mi pare che avevo tante cose da dirti e ora non ricordo più. Ma l'importante, Mimmo, è che tu sappia sempre, sempre, che non c'è stato un momento della vita di Loletta in cui avresti potuto darle di più di quanto le hai dato. E ora sono tranquilla perché ho dentro di me tutto il tuo amore. Certo, è un bel record, però. Morire di questi tempi, di malattia, sul proprio letto, per un comunista. E poi Scelba ha il coraggio di parlare di pericolo comunista. Per quelle parole di Loletta, per l'ironia ancor più che per il coraggio, Mimmo poté dirsi di non averla perduta del tutto. Mise in tasca la lettera e gli sembrò che gliene arrivasse un calore tenue ma costante. Così riuscì ad affrontare problemi burocratici e incombenze, così presenziò al funerale. E il nome sbagliato di Xenia sulla corona inviata dai compagni svizzeri gli strappò perfino un sorriso, che riuscì a muovergli per un attimo la faccia contratta. Ad accoglierlo alla stazione trovò compagni, quasi una delegazione. Negli occhi di tutti l'affetto e il dolore, ma nelle parole gli impegni, il lavoro, il partito, perché così era il modo fra compagni. A casa Marinella sapeva già dal telefono. Mimmo si appoggiò a lei come a un pilastro, dimenticando i suoi 15 anni. Non ne fu deluso. Detto a Clara di morte Xenia. Annotò Mimmo sull'agenda. Si accorse benissimo che le lacrime della bimba erano sforzate, perché sapeva che quello ci si aspettava da lei. Detestò la sua buona educazione, l'abitino ben spazzolato che indossava, il moccio che comunque dovette asciugarle, la fiaba che fu costretto a raccontarle perché si decidesse ad andare a letto. Quando la bimba gli chiese: «Me lo farai anche domani?», lui si voltò, andò via, non rispose. Nel pomeriggio a lungo parlò con Togliatti di Xenia, ma poi di molte altre cose: la commissione culturale e il Consiglio Mondiale della Pace, i libri e gli articoli e gli interventi. Cominciava a intravedere di nuovo un ordine, un modo, dentro il quale anche la morte di Loletta potesse trovare un senso, una funzione se non una ragione. Con la nuova compagna Mimmo ebbe altri 20 anni sui quali nessuno avrebbe scommesso, altre felicità, altre parole. Ebbe altre figlie e definitivamente non ebree. Pubblicò testi che hanno segnato la cultura, ebbe incarichi politici prestigiosi e riconoscimenti accademici, ebbe una casa che avrebbe voluto come quella di via Cavour e fu tutt'altro. Ebbe un'altra vita non di ripiego. Attorno a lui il mondo intero inesorabilmente cambiava, per inciampi, per evoluzione, per catastrofi. Non ammise mai di aver smesso di credere. Non nel 1956, quando il grande ritratto di Stalin sparì dal suo studio per un trasloco, quando l'Ungheria fu invasa e solo molto in privato si disse confuso fino alla disperazione, poi tornò all'obbedienza con gli allontanamenti e le cesure che ne derivarono. Non smise di credere nel 67, quando la guerra in Medio Oriente gli deflagrò dentro e scelse le posizioni più radicali del partito, negandosi alle ragioni degli affetti. Non nel 68, quando anche in casa le passioni del comunismo si delinearono diverse e intanto i carri armati occupavano Praga, quando quasi tutti nel partito, si limitavano a un vecchio frasario, bollando ogni spinta al nuovo come estremismo, malattia infantile del comunismo, cercò di interpretare con gli strumenti che gli erano propri le ragioni del movimento. Non lo ammise mai, forse perché nessuno affrontò il disagio di chiederglielo. Stupiti del suo progressivo ammutolire tutti, perfino i compagni che gli erano stati più vicini, senza domande si ritrassero per rispetto e per opportunità. Vide crescere le generazioni nuove, così diverse, così inconsapevoli. Il vecchio Adamo, che con tanta fatica aveva tentato di cancellare da sé, si riaffacciava con prepotenza alla ribalta della storia. E quelle che un tempo erano state necessità diventavano colpe. Non lo assolveva il partito, che per vestire nuovi panni in fretta e senza sottilizzare doveva disfarsi dei vecchi. Non lo assolveva la famiglia, quella di qui come quella di lì, che aveva pagato care, forse a usura, le sue scelte. Continuò a pensare che il sogno dell'Unione Sovietica, non la realtà ormai senza veli anche per lui, fosse ancora indispensabile per portare avanti il mondo, per resistere all'onda reazionaria che schiacciava minuziosamente uno per uno i poveri, i diseredati, tutti quelli che con loro e per loro speravano in un mondo più giusto. Quando gli strappi alla sua rete, sommandosi, gli resero irriconoscibile il mondo, si separò da tutti i suoi libri, se li allontanò e fu come farsi cieco. Decine di casse caricate sui camion, su ciascuna la targhetta esplicativa incollata con scrupolo puntiglioso, via anche i fascicoli ricavati dalle riviste, via le bibliografie monumentali, via la corrispondenza ufficiale e quella personale, le agende, i manoscritti dei suoi libri. Attorno a lui metri e metri e metri di librerie svuotate, deserte. Sui muri i segni di quello che non c'era più, polvere, sporcizia e i residui di una vita, la musica, il ritratto di Xenia, i giornalini dei regni. Privo del muro di carta che per tanti anni lo aveva rinchiuso e difeso, fu ad un tratto vecchio, assai più degli anni che aveva. Silenzio. Ordine e disciplina, comandamenti vuoti, via via più staccati da un progetto. Un dolore che dilagava, una solitudine feroce, fino all'ultimo. Per non ferirgli gli occhi, la stanza era in penombra. Il buio risucchiava volti ed espressioni oscurando lacrime, sofferenze, pena. Un piccolo cono di luce isolava il braccio, il laccio emostatico, la mano contratta. Quando tutto finì, furono accese altre luci. Nel disordine di lenzuola e cuscini il suo corpo apparve piccolo, perso nel grande letto dove Alfonso lo aveva partorito. Lo vestirono di scuro, con l'abito dei ricevimenti all'ambasciata sovietica. L'immagine finale è tutta interna alla liturgia di partito. Quando provai a far ordine dentro di me, quell'immagine generò un rancore confuso e un dolore che non sapevo collocare. Sforzandomi ad una ragione, tentai di cancellarla da me, con la voglia forte di dichiararmi estranea e innocente. La pietà, che avrebbe potuto essermi d'aiuto, non rientrava nei canoni dell'educazione che mi aveva impartito. Per ritrovarla dentro di me, ho dovuto cercarla molto lontano, nelle radici negate, troncate per volontà ma misteriosamente riaffioranti, in una sapienza antica, tranquilla di sé, quanto occorre per discernere e salvare, fra i detriti della storia, ciò che ancora può servire, nella fotocopia di una pagina stampata che qualcuno lasciò durante quei funerali, appuntata su un mazzo di fiori. Non so chi fosse quel qualcuno. Non conosco il libro da cui quella pagina proveniva. Non so se per giustizia o per amore. Non so se basti a spiegare, ad assolvere. Tutto quel che so è il conforto oscuro che ebbi da quelle parole allora e il bisogno che provo oggi di accogliere fra le mie quella pagina. Quando Elisha ben Avuya morì, molto discussero i maestri della sua eredità. Ci si chiedeva se ancora appartenesse alla comunità quell'uomo che, entrato in solitudine e con iattanza nell'arengo della speculazione intellettuale, ne era uscito trasformato, così diverso da venir chiamato da allora in poi l'altro. Si trattava di decidere se i beni che aveva posseduto potessero andare alle sue figlie o se, come per gli stranieri, tutto dovesse essere messo in comune. Vennero raccolte testimonianze, quella della prostituta che lui aveva cercato durante lo Shabbat, quelle dei bambini della scuola che aveva sommerso di cattiva sapienza quando, avendo cercato su sua richiesta versetti da commentare, ne avevano tratto indicazioni di esclusione o di maledizione addirittura. Infine, la testimonianza decisiva fu quella di Rabbi Meir, il discepolo più amato, che pure tante volte aveva criticato ed osteggiato i suoi errori e affrontato scontri con lui e discussioni anche amare, senza mai smettere però di riconoscerlo maestro. Sostenne Rabbi Meir che Elisha, sul letto di morte, aveva pianto. Forse per la disperazione di lasciare la vita, ma Meir immaginava per pentimento, e questo fu ritenuto sufficiente a farlo riconoscere come appartenente alla comunità. E alle sue figlie fu consentito di ereditare, e anche le parole della rivolta e dell'arroganza, della passione e della solitudine, entrarono a far parte del Talmud. When that sing to me. E questa era l'ultima puntata della lettura offerta da Monica Piseddu del Gioco dei Regni di Clara Sereni, un modo per ricordare la scrittrice scomparsa l'anno scorso, la 25esima e ultima puntata di questo ciclo di Ad Alta Voce a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. La regia è di Riccardo Amorese. Abbiamo detto però ultima e non più ultima, perché in realtà sarà disponibile in podcast e in streaming sulla pagina web di Ad Alta Voce una puntata extra, si intitola Dopo la storia ed è una sorta di lunga appassionante postfazione in cui Clara Sereni racconta come ha scritto il Gioco dei Regni. Quindi chi è interessato può andare a recuperare anche questa, diciamo così, 26esima puntata sul sito di Ad Alta Voce.